Una notiziola interessante, diffusa in singolare coincidenza con l'apertura della grande mostra archeologica dedicata in Roma a Cleopatra regina d'Egitto, ci viene dall'austero mondo della papirologia. Il professor Van Minnen dell'Università di Leida ha infatti comunicato alla stampa di aver scoperto in un papiro del Museo Egizio di Berlino un autografo di quella grandissima regina, settima del suo nome, con il cui regno, durato tra alterne vicende dal 51 al 30 avanti Cristo, si concluse, è proprio il caso di dirlo in bellezza, la dinastia dei Lagidi. Che proprio di un autografo si tratti sembra abbastanza sicuro. Il papiro in questione contiene l'autorizzazione regale rivolta a un innominato cittadino romano da esportare esentasse dall'Egitto fino a 10.000 sacchi di grano e a importarvi fino a 5.000 anfore di vino, un affare per gli standard dell'epoca di dimensioni piuttosto cospicue. Il testo naturalmente è stato steso da qualche funzionario di corte, ma in carcere figura d'altra mano la chiosa Genestro, come a dire si esegua, ed è fuori di dubbio che la facoltà di apporre quella formula fosse una provocativa strettamente regale. Visto che il papiro è datato senza possibilità d'equivoco a quello che per noi è il 33 a.C., non si può non concludere che quelle poche lettere le ha tracciate la regina in persona. D'accordo, d'accordo, so già cosa state per ribattermi. La scoperta non è tale da stravolgere la nostra conoscenza della vita sociale ed economica dell'Egitto ellenistico. In fondo, 10.000 sacchi di grano e 5.000 anfore di vino potevano rendere un mucchio di soldi a chi li importava ed esportava, soprattutto se in franchigia fiscale, ma di fronte alla storia con la maiuscola si tratta alla fin fine di poca cosa. E la stessa personalità della regina autorizzante non sembra ricavare dalla scoperta particolari lumi. È vero. Ma bisogna anche rendersi conto che la scoperta, pur insignificante sul piano storico, resta piuttosto importante dal punto di vista antiquario e non è priva di interesse per chi ama riflettere sul passato. In fondo, di nessun altro protagonista della storia antica c'era mai giunto qualcosa di scritto di proprio pugno. Gli editti, le lettere, le memorie, gli scritti polemici di quei grandi ci sono giunti, quando ci sono giunti, attraverso una tradizione manoscritta di parecchi secoli, grazie all'opera di una lunga catena di copisti e scrivani. Il fatto che di mano d'Augusto il vincitore non ci sia giunta una riga e che Cleopatra la sconfitta sia stata da questo punto di vista più fortunata di lui, pur non cambiando in nulla le carte in tavola della storia, può essere considerata una manifestazione di quell'ironia che sembra talvolta presiedere alla trasmissione delle testimonianze del mondo antico. E poi, che questa specifica testimonianza sia così insignificante non sarei del tutto sicuro. Il professor Van Minnen, infatti, che sa il fatto suo, crede di poter dimostrare che il cittadino romano destinatario di quel documento fosse Publio Canidio Crasso, che come sicuramente ricorderete fu console nel 39 e fu successivamente investito di importanti incarichi militari in Oriente. Fedelissimo ad Antonio e Cleopatra, costui comandò le truppe di terra durante la campagna di Azio e non abbandonò il triunviro neanche dopo la sconfitta. Ora, dal documento firmato della regina sembrerebbe proprio che tanta fedeltà non fosse propriamente disinteressata e che da Cleopatra avesse ricevuto, per così dire, qualche concreto incentivo. Ora, non vedetemi a dire che a voi di Publio Canidio Crasso non ve ne potrebbe importare di meno, ma pensate a Cleopatra piuttosto, pensate a tutti quelli che nei secoli hanno scritto che manovrava gli uomini con la sua bellezza, per cui, come deve aver ipotizzato, credo, quel pettegolo di Pascal, se il suo naso fosse stato più lungo o più corto, né Cesare né Antonio avrebbero avuto il minimo interesse per lei e per l'Egitto nel suo complesso, e la storia del genere umano sarebbe stata in qualche modo diversa. E sono futilità. Tutte futilità. Oggi, grazie al professor Van Minnen, disponiamo della prova firmata e sottoscritta del fatto che la regina, come tutti, se appena possono, la fedeltà altrui la pagava in contanti. E se di quell'incentivo si servì nei confronti di Publio Canidio, chi ci dice che ne abbia usato di diversi con Cesare Antonio? Dite che non ne aveva bisogno perché era bellissima e affascinante? Sì, tutti gli storici ce lo assicurano, ma degli storici antichi non è mai il caso di fidarsi fino in fondo. A Cesare, per esempio, Cicerone rimproverava di avere in campo amoroso delle preferenze tali da escludere che potesse cadere vittima del fascino femminile, ma che fosse più che sensibile al fascino della moneta contante, ahimè, era talmente noto che nelle sue opere non lo nega neanche lui. Dobbiamo rassegnarci quindi a eliminare dalla storia la favola della bella regina che spingeva gli uomini a cambiare la storia per amor suo. Nella storia gli agenti motori sono inesorabilmente degli altri. Anche se avesse avuto il naso di Cyrano de Bergerac, Cleopatra controllava comunque le finanze di uno dei paesi più ricchi del mondo mediterraneo e questo ai generali romani sarà senz'altro bastato. Un vecchio slogan del post 68 assicurava che tutte le donne sono belle, che all women are beautiful, è un punto di vista di grande saggezza, ma non esclude che per qualcuno quelle ricche e potenti siano più belle delle altre.